Ma quale reddito di cittadinanza? Il reddito di Milanza dovete dare a tutti i fan di Alessandro Milan! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati con una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan in onda dalla ridotta di Viale Monza in Milano per tre mezz'ore fino alle 10:30 con incredibile dictu Filippo Aureggi in regia. Filippo Aureggi in regia, va bene, noi accettiamo tutto, sono tempi di emergenza, di grave situazione emergenziale, quindi accettiamo anche Filippo Aureggi in regia, insieme alla nostra redazione. Qui potevi far partire anche gli applausi, se volevi un attimo incensarti, caro Pippo, comunque fai tu. Va bene, grazie. Non richiesti, peraltro, non richiesti e non stimolati da nessuno. Insieme alla redazione, da Elisabetta Fusconi a Miriam Lucchetti a Lorenzo Nespoli, oggi faccio fatica un po' con i nomi, non mi ricordo più come si chiamano i colleghi in redazione, va bene tutto così. Leonardo Manera invece, Vestagliona, signor Bonetti, me lo ricordo, arriverà con noi alle 9:30. State qui perché oggi abbiamo una puntata molto molto ricca. 800 24 0024, chiamateci. Se volete, come sapete, 349-238-6666, i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, la mail 100milan@radio24.it. Vai Pippo, perché ho già causato un dramma e un problema di prima mattina, vai. Enthusiasm about the future. Allora, io facendo parte della scuola sono cresciuto con Giancarlo Santalmassi, che saluto, che ringrazio, a cui sarò sempre eternamente grato, e lui la prima lezione che mi ha dato della scuola Santalmassi è stata: non esistono domande stupide, sbagliate, esistono le domande innocenti. Allora io oggi su Facebook ho fatto una domanda innocente sul mio profilo pubblico e ho chiesto, perché mi sono svegliato con questo dubbio: ma i dipendenti pubblici, quelli che non fanno il lavoro agile da casa, magari perché l'amministrazione comunale o il ministero o l'ufficio della pubblica amministrazione non li mette in condizioni neanche di fare il lavoro agile da casa, e quindi sono di fatto a casa ma non lavorano, prendono comunque lo stipendio? Ovviamente si è scatenato un putiferio di code di paglia, di gente livorosa che mi ha risposto: una domanda del genere da uno come te? Ma che domanda ho fatto? Ho fatto una domanda. Infatti io ringrazio con il cuore in mano i tantissimi dipendenti pubblici che mi stanno rispondendo e mi stanno chiarendo qual è la situazione. Un ascoltatore mi ha scritto, un ascoltatore o un follower su Facebook mi ha detto: io lavoro in un laboratorio veterinario pubblico, quando non c'è lavoro sto a casa e mi scalano ferie o mi pagano il 50% dello stipendio. Un'altra ascoltatrice o follower su Facebook mi ha scritto una situazione simile: devo stare a casa e scalano le ferie. Cioè, ho fatto una domanda e ho ottenuto un 20% di risposte di chiarezza, e invito anche gli ascoltatori dipendenti pubblici a chiamarci 800 24 0024, così facciamo chiarezza. E poi un livore: perché attaccare così i dipendenti pubblici? Chi li ha attaccati? Ho fatto una domanda, capite il senso del giornalista che fa una domanda e ottiene una risposta? Ma questo mi sembra di capire che c'è un livore insopportabile, devo dire, perché a un certo punto uno, se no mi sveglio, scrivo cani o gatti, ecco, so che litigherete anche su questo, vi dividerete anche su questo, però nessuno troverà in questa domanda cani o gatti nessun sottotesto e nessun livore da riversare sul sottoscritto. Comunque dico sempre che se volete versare del livore sul sottoscritto, sempre meglio che arrabbiarvi nel traffico, e sono sempre soldi che spendete, che risparmiate in sedute psicologiche che evitate. venendo qua. Va bene. Detto questo, se volete chiarirci la situazione, cari dipendenti pubblici, 800 24 0024, ditecelo. Ci sono poi molti che hanno detto, un insegnante mi ha scritto: io sto lavorando molto bene, anche se conosco situazioni di colleghi, e quindi si va nel settore della scuola, di colleghi che si sono un po' imbucati, di colleghi che e dice questo dipendente pubblico, effettivamente nel settore privato c'è maggiore controllo, ma comunque ci sono anche dipendenti nel privato che sono imbucati, cioè non è una questione di battaglia. Ho fatto una domanda. Allora, per quel che riguarda invece le notizie, oggi mi ha colpito molto soprattutto questo titolo di Repubblica sui 10 milioni di persone che rischiano la povertà. 10 milioni di persone che rischiano la povertà. C'è un reportage su Repubblica, pagina 2, sotto il titolo La crisi, che vi invito a leggere. 10 milioni di italiani, un quinto degli adulti totali, sono a un gradino dalla povertà assoluta. Rischiano di non riuscire ad affrontare le spese essenziali: cibo, medicine, bollette, affitto, mutuo. In banca hanno meno di 900 euro in media. L'Italia, chiusa per 2 mesi, ne richiede almeno 2.200 a testa. Ecco, c'è questo studio di Salvatore Morelli pubblicato sulla voce.info che mostra con chiarezza e che smentisce anche la vulgata degli italiani formichine. Forse avevamo un grado di risparmio, un tasso di risparmio prima, che ora si è eroso in 10 anni. Era nel 2008 dell'8%, ora è al 2,5%, quindi molte persone stanno esaurendo anche i soldi in banca e stanno finendo le risorse su cui poter contare. Allora, devo dire che mi ha colpito tra le varie notizie. Ah, perfetto, è tornato Berlusconi. Poco fa abbiamo sentito anche Simone Spezia e Maria Latella che hanno parlato del tema dei braccianti agricoli, dei lavoratori dell'agricoltura, di come fare per tutti i prodotti che sono nei campi e sono lì. C'è chi propone, come abbiamo sentito, vari ospiti, anche il presidente della Mutti Pomodori, di dire mandiamo coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. C'è il tema della regolarizzazione degli stranieri. È tornato su questo Silvio Berlusconi, sentilo Filippo. Ci sono tanti disoccupati, cassi integrati, percettori del reddito di cittadinanza, che potrebbero essere impiegati utilmente. E i voucher erano e sono uno strumento di flessibilità che in questo momento sarebbe prezioso. E va bene, Silvio Berlusconi, alle 9:13 minuti, c'è anche, che cosa mi ha colpito, in questa situazione non voglio aizzare rabbie, non voglio far arrabbiare nessuno, ma quando uno legge un titolo così, facevano finta di cremare i defunti e poi incassavano i soldi dei parenti. Lo leggo a pagina 23 della Verità, al cimitero di Prima Porta a Roma. Fanno finta di cremare i defunti alcune agenzie funebri e poi incassano i soldi. In realtà è una notizia riportata dal Messaggero, che oggi è riportato dalla Verità, così come un altro denunciato, finto invalido, aveva fatto finta per 13 anni di essere non vedente, incassando la relativa pensione di invalidità in quanto cieco civile assoluto, tradito dalle norme per l'isolamento antivirus. L'uomo girava infatti per le strade di Este, siamo in provincia di Padova, senza bastone né occhiali e con un piccolo cane al guinzaglio, non certo un cane guida. Come dire, qua Filippo Reggi, se vuoi, c'è di che sbizzarrirsi, c'è il premio Giachetti, c'è l'indicazione di Giuseppe da Reggio Calabria che propone la solita soluzione del miccio di boe. Quello che vuoi tu, insomma, poi ci vorrebbe puoi una decidere. Bella passata del miccio di boe in loco e anche intinto nell'aceto, ricordiamo che fa più male, se ho capito bene. Allora, chi ha diritto ad ottenere i buoni spesa del comune? Mi ha colpito e abbiamo il primo ospite su questo, una storia che viene riportata, per la verità, secondo me, con non molta enfasi dai giornali, ma io l'ho trovata una notizia interessante, una decisione del giudice di Roma Silvia Albano, che in sintesi, su un ricorso di un cittadino filippino che era in Italia in situazioni di regolarità, poi è scaduto il contratto, come succede a molti stranieri, perdono un contratto di lavoro e diventano irregolari pur rimanendo sul suolo italiano. Questo cittadino filippino ha detto: io che mi trovo in una situazione di irregolarità dal punto di vista della legge, voglio e ho diritto comunque al buono spesa del Comune di Roma. È stato assistito dall'avvocato Salvatore Fachile, che saluto, buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Ha presentato ricorso contro la delibera del Comune e ha ottenuto ragione. Ripeto, giudice Silvia Albano ha detto, in sintesi, in estrema sintesi, per i titoli, il buono spesa va dato anche agli immigrati irregolari. Perché? Perché il, come dire, la fame, ecco, poi lei, avvocato, ce lo spiega meglio, la fame è un qualcosa che dà diritto a essere assistiti. Questo sostanzialmente ha stabilito il giudice, no? Sì, ha stabilito il giudice che i bisogni essenziali sono comuni a tutte le persone presenti sul territorio e lo Stato italiano vi deve provvedere senza distinzione fra persone che hanno un permesso di soggiorno o che non lo hanno, cosa che fa già tra l'altro per legge rispetto alle prestazioni sanitarie, no? Cioè, tutte le prestazioni, certo, le prestazioni sanitarie essenziali vanno assicurate a tutte le persone a prescindere dallo status giuridico. Ecco che allora la dottoressa Albano quello che fa è un salto ulteriore e stabilisce nel silenzio della legge che anche i bisogni essenziali di tipo alimentare, sulla base dell'articolo 2 del testo unico dell'immigrazione, ma soprattutto sulla base dei nostri principi costituzionali ed europei, vanno assicurati anche ovviamente alle persone che non hanno un permesso di soggiorno, perché non si tratta di prestazioni sociali ampie come una pensione o di altro genere, ma si tratta di prestazioni di tipo essenziale, di base, sì, di sopravvivenza. Okay. Questo, come puoi immaginare, avvocato, farà storcere il naso a qualcuno, dirà: ma come, è un irregolare, ma allora assistiamo tutti. Vogliamo spiegare tra l'altro che era regolare fino a un paio d'anni fa, se non sbaglio, faceva il cuoco, tra l'altro con una compagna che faceva la badante, e si sono trovati in una situazione, non so se entrambi, di irregolarità di fatto. Ma sì, cioè nel caso specifico si tratta di un nucleo familiare che era stato regolare, è stato regolare per anni in Italia e, come spessissimo accade, ha perso la regolarità semplicemente perché, come sapete, il permesso di soggiorno rende precario la condizione giuridica della persona che deve continuare ad assicurare un reddito, un'abitazione, eccetera. E come per tutte le persone può capitare a un certo momento ciclicamente di non avere esattamente il reddito richiesto dalla legge, eccetera. Quindi nel caso specifico si trattava di una persona, come spessissimo accade per le persone prive di un permesso di soggiorno, che prima aveva un permesso di soggiorno. Ma comunque attenzione, perché il principio è giusto, è ragionevole, è moderno, come dire, applicarlo e ritenerlo corretto nei confronti di tutte le persone senza un permesso di soggiorno. Cioè, una società moderna come la nostra non può neanche immaginare che non vada incontro alle esigenze primarie, quindi basiche, di alimentazione, di una persona, a prescindere da quella che è. Cioè, sarebbe medievale, oltre che però vede, avvocato, che fa notizia, insomma, può immaginare che alcuni giornali come Libero, per esempio, criticano questa presa di posizione da parte del giudice, insomma, per lei non è una notizia, però per alcuni cittadini è per qualcosa che no, però mi sembra corretto ragionare in termini di normalità su questo, nel senso che io capisco, come dice lei, che ci sono alcuni giornali che fomenteranno una lettura normale, eccetera, però se pensiamo alla nostra vita e ai ragionamenti che il 95% delle persone può fare su quelle che sono le condizioni delle persone che lo circondano, è normale pensare e immaginare che una società opulenta, ricca e moderna come la nostra non sì, lasciamo una persona che muoia proprio di fame in senso proprio, no? Certo. Arriverebbe quasi tutta, cioè sarebbero d'accordo quasi tutti su questo. Poi è chiaro che, come dice lei, ci sono giornali che leggono, fomentano, questo da sempre. È il bello anche del dibattito pubblico italiano. Sono d'accordo, è che diciamo, umanamente non mi sembra una cosa così eccezionale, mi sembra giuridicamente interessante, perché chiaramente c'è una questione tecnica che è stata superata, che è relativa al bando del comune, quindi molto interessante tecnicamente, però ecco, umanamente mi sembra il minimo che possiamo dire e possiamo fare, no? Ma io sono d'accordo con lei, avvocato. Intanto io la ringrazio, ripeto, Salvatore Facchile, l'avvocato di Randi, cittadino filippino che si è trovato in situazione di irregolarità dopo aver perso un contratto di lavoro e che ha fatto ricorso contro la delibera del Comune di Roma che richiede la residenza anagrafica come requisito per il buono spesa e ha ottenuto quindi da situazione di fatto di legge di immigrato irregolare dal giudice Silvia Albano l'ottenimento e ha ottenuto ragione per cui può ottenere il bonus spesa del Comune di Roma. Oh, vedete, su Facebook tantissimi mi stanno scrivendo e vi ringrazio, dipendenti pubblici, bella questa risposta che mi dicono dalla redazione, sono un dipendente comunale, per tutti i dipendenti pubblici vale la stessa regola, cioè in assenza di possibilità di svolgere il lavoro agile, adesso lo chiamo così da quando ieri abbiamo avuto il presidente dell'Accademia della Crusca, oppure nel caso in cui non ci sia necessità, perché il lavoro è molto caro, per esempio, siamo obbligati a prendere nel seguente ordine: ferie residue 2018, ore di straordinario messe a recupero, ferie residue 2019, cioè se uno le ha da scalare, le ferie 2020 non possono essere toccate. E questo è un punto sul quale uno potrebbe dire: e come mai le ferie 2020 non possono essere toccate? Se sono stati esauriti tutti questi istituti, veniamo giustificati con l'articolo 87, con cui rimaniamo a casa senza però perdere un centesimo dello stipendio. Anche questo punto effettivamente non è che io voglia mettere alla fame, visto che parliamo di fame, i dipendenti pubblici, però ci sono due elementi, le ferie 2020 che non possono essere toccate, e se non ci sono tutti questi istituti rimaniamo a casa senza perdere un centesimo dello stipendio, che forse vanno un po' capiti. Comunque ringrazio molto l'ascoltatore dipendente comunale che ci ha mandato questo chiarimento. Adesso io voglio introdurre un argomento che può far sorridere messo così, ma oggi per esempio il titolo di Repubblica a pagina 14 è questo: processo alla Cina. Allora, l'ultimo stato che si è iscritto a dire dobbiamo fare una causa collettiva alla Cina sulla base dei fatti che in Cina probabilmente hanno ritardato le comunicazioni nei malati di coronavirus, hanno forse insabbiato il numero dei morti, insomma ci sono delle cose da chiarire. L'ultimo stato è lo stato del Missouri, Stati Uniti d'America. Quindi in Missouri hanno deciso stato repubblicano, di processare la Repubblica Popolare, il Partito Comunista Cinese. Ora, è chiaro che non succederà nulla, perché c'è l'immunità degli stati, se andasse all'ONU, ricordo che la Cina ha un seggio permanente all'ONU, quindi non credo che al di là del fatto simbolico si possa arrivare a qualcosa di concreto. Però invece voglio sentire la voce di un avvocato che è Marco Vignola, che gestisce i diritti, insomma gli affari, è rappresentante legale dell'Hotel della Post di Cortina d'Ampezzo, storico hotel. Avvocato Vignola, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Perché buongiorno anche a lei. All'Hotel della Post si è presa questa decisione di dire, mi dica quali sono i termini corretti da usare in termini giuridici. Cosa facciamo? Denunciamo la Cina? Cioè, denunciamo chi l'ha ambasciata, il governo? Cosa fate? Bisogna fare innanzitutto dei piccoli, insomma, chiarimenti, anche aggiornamenti. Ovviamente questa notizia ha avuto, come ben pensavo, insomma, un effetto mediatico non indifferente, e io da vecchio penalista quale sono abituato a fare, diciamo, i processi in aula e non sui media, come purtroppo vedo che succede. Però insomma, la libertà di stampa e l'informazione quindi deve essere è necessaria, quindi insomma le faccio qualche piccolo chiarimento. Anche allora, innanzitutto l'atto è ancora in fase di notifica, perché ovviamente l'ufficio competente è il Tribunale di Belluno, ufficio 1 di Belluno, io sono a Bari, adesso stiamo cercando un attimo di trovare un collega, perché anche l'ufficio 1 è insomma, ha delle difficoltà, delle aperture, quindi a questo punto la notifica sarà tra lunedì o massimo, insomma, dopo il 4 di maggio, insomma, se tutto va bene, insomma, avremo un po' più libertà di circolazione. Sì. Io stamattina stavo leggendo anche, insomma, un articolo sulla Federalberghi di Venezia, quindi città molto conosciuta, tra l'altro vicinissima a Cortina, che aveva preso anche, diciamo, un po' le distanze per quanto riguardava, insomma, l'iniziativa presa dal dottor Manaigo, insomma, una famiglia storica di imprenditori di Cortina. Sì. Ecco, io su questo ha deciso di citare per danni. Io ritengo, insomma, ho ragionato da penalista, perché sicuramente se ci fosse stata una casa per appalto, non facendo civile, non l'avrei mai accettato. Però, insomma, il danno, noi siamo abituati come penalisti, danno colposo, insomma, di vederli ogni giorno, quindi, insomma, ho preso volentieri questa causa. Allora, tra Venezia, ovviamente, Cortina, ci sono delle differenze abissali, come lei ben sa, vabbè, tranne, insomma, questo danno che, come tutti sanno, c'era la Coppa del Mondo a pochi sì. giorni, quindi Cortina alla fine è una città turistica, si basa sui 6 mesi l'anno, quindi Natale, febbraio, Carnevale, poi dopo Pasqua gli alberghi sono, diciamo, chiusi, meno male, perché, insomma, il danno, diciamo, è economico, il danno cosiddetto diretto è abbastanza circoscritto. Capisco, chi citate, ovviamente, per danni esattamente? Cioè il governo cinese, io ho citato per danni, e poi ovviamente l'autorità giudiziaria valuterà le mie difese. Io ho ritenuto di citare il ministro della sanità cinese per aver sottaciuto quasi 40 giorni delle informazioni. Io ho visto anche una cifra che chiedete, se si può sapere. No, guardi, la cifra, ecco, le voglio dire questo, tra la differenza, quindi capisco anche magari che la Federalberghi di Venezia, anche se, ripeto, mi hanno chiamato tantissimi colleghi del foro di Venezia, hanno un sacco di piccoli albergatori proprio di Venezia che volevano, insomma, sapere qualche delucidazione giuridica, quindi Venezia sicuramente campa, insomma, sul turismo 12 mesi l'anno, Cortina ne campa 6, quindi il danno mio è stato realmente molto circostanziato al periodo. Ovviamente il danno diretto sarà facilmente dimostrabile, perché basta portare il fatturato dell'anno scorso e il fatturato dei 2 mesi, tra l'altro mai come quest'anno, perché Cortina, dopo tutti quei periodi bui, con l'assegnazione della Coppa del Mondo, l'assegnazione dei Mondiali 2021, che sono anche un po' in forza, io mi auguro che entro febbraio 2021 anche lo sport riprenda a pieno ritmo, e le Olimpiadi 2026, quindi mai come quest'anno c'era proprio il pienone nella città. Certo. Però, insomma, quindi, vabbè, intanto basta vedere il fatturato che è a zero adesso, in pratica. Il fatturato a zero, tra l'altro, io, insomma, sono di Bari, come molti sanno, insomma, c'è tantissima manovalanza del sud che va a lavorare al nord, ai lavapiatti, ai direttori di alberghi, gente che pulisce le camere, quindi di colpo il dottor Manaigo, come tutti gli altri 50 alberghi, mi sembra che siano a Cortina, hanno provveduto ovviamente al licenziamento, quindi un danno pazzesco che poi ovviamente sarà valutato in corso di causa. La causa addirittura tra l'altro vogliamo spiegarla una cosa anche personale, ma interessante, perché dice: sono di Bari, ma lei è stata un'atleta di bob? Sono barese di nascita, però ampezzano di adozione. Esatto. Anni nazionale italiana di bob. Nazionale di bob, precisando questa cosa, mi piace molto questa collaborazione tra Nord e Sud, che in caso di emergenza, io ho visto un sacco di malati venire qua nella mia Puglia del Nord o viceversa, quindi anche, insomma, nella fase 2, che penso che ci sia, insomma, l'avvocatura dia un grande contributo, mi fa anche piacere, ecco, che ci siano degli scambi giuridici. Ora, prescindendo all'esito della causa, che mi auguro, spero che sia positiva, anche perché, le dico, ho fatto un atto molto molto semplice, però ovviamente poi sarà valutato dal Tribunale di Belluno, che le ricordo anche che, insomma, il Tribunale di Belluno non è il tribunale, c'è un tribunale che nel 1968 ha avuto una causa per il disastro del Vajont, quindi, insomma, è un tribunale abituato anche a degli impatti mediatici, insomma, non indifferenti. No, ma è chiaro, perché capisce che i titoli citare per danni la Cina, seppure da un tele storico, è importante. Io ho ritenuto, innanzitutto, insomma, un'iniziativa del dottor Maneigo proprio il 12 marzo, quando ha chiuso. Mi ha chiamato, ha detto: Marco, ma cosa facciamo? Ha detto: guarda, Gerardo, fammi studiare un attimo la cosa. E io ho detto, come tra l'altro anche il foro competente, beh, io ho ragionato un po' da penalista, il locus commissi delicti, ho detto: vabbè, il danno l'hai avuto là, quindi insomma penso che sia il tribunale di Belluno. Ovviamente ero indeciso tra governo cinese, anche perché non sappiamo molto bene insomma, non sappiamo molto bene, ecco, sì, andiamo su internet, però a livello pratico. Va bene, ma mettiamo il caso, avvocato, poi si vedrà, dovesse arrivare anche a una ragione giudiziaria da parte vostra, ma perché un ministero della Cina dovrebbe adeguarsi a una sentenza del Tribunale di Belluno? Così. Guardi, io questo sono ancora molto, le dirò, anche c'è un accordo, io erroneamente quando ho iniziato a stendere l'atto ritenevo che proprio l'atto dovesse addirittura essere notificato all'ambasciata cinese, sbagliando, invece c'è una vecchissima legge degli accordi del 1991 che qualsiasi atto giudiziario deve essere notificato presso il Ministero di Grazia e Giustizia italiano, quindi certo. Stato tradotto in lingua inglese o cinese, e io tanto e quindi diciamo questa collaborazione già del 1991, siamo nel 2020, quindi vuol dire che ci sono degli accordi ben precisi. Io mi auguro innanzitutto avere una sentenza positiva e poi è chiaro, questo è il primo punto, poi nel caso come recuperare poi andrò dove andarla e seguire sicuramente. Guarda, mi creda, non è una causa a livello mediatico, anzi io sto cercando proprio di contenere i media, però ovviamente siamo stati i primi in Italia e ne sono, tra virgolette, orgoglioso. Certo. Voi ci credete, sì, non è una boutade per finire sui giornali, anche perché l'hotel della Posta è un albergo serino, non ha bisogno, però purtroppo il danno c'è. E le dico che mi stanno chiamando tantissimi colleghi da tutte le parti d'Italia. Mi fa piacere perché in questo periodo che siamo tutti in smart working, io sono a casa, insomma, avere anche degli scambi di natura giuridica l'idea lavoro ce n'è, lei dice, di lavoro, se si vuole fare causa alla Cina, visto che qualche problema c'è stato. Insomma, l'avvocatura che insomma è necessaria come quest'anno, chiaro. Ecco, vedo che avvocato, facciamo così, vedremo come andrà a finire. Io intanto la ringrazio molto, ripeto, Marco Vignola, è un saluto a tutti voi, ecco. Grazie, io poi sono sportivo, quindi insomma mi piace La competizione, si potrà vincere o si potrà perdere. Avvocato che gestisce gli affari dell'hotel della Posta di Cortina d'Ampezzo, uno dei storici hotel, quelli anche di vacanze di Natale. Ale, a proposito di Cina, adesso dopo la pubblicità invece ci raggiungerà un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso, che ha fatto un'iniziativa facendo arrivare dalla Cina migliaia di mascherine, bene preziosermo di questi tempi, e ci racconterà qualcosa. C'è anche Leonardo Manera, vai Pippo. Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo qui alle 9:34 minuti. C'è Leonardone Manera, Vestagliona? Come potrei non esserci qui? Buongiorno, 45esimo giorno di arresti domiciliari in attesa di giudizio. Tu ne tieni conto? È una tortura, è una tortura cinese, a proposito di Cina, visto che abbiamo parlato, tener conto dei giorni. Sono 45, se non sbaglio, in attesa di giudizio dei virologi, che dovranno dirci quando potremo recuperare parte della libertà. Ecco. Potremmo chiedere al professor Picchio, oggi non viene a trovarti? Risposte chiare, molto chiare, molto chiare. Vabbè, a parte questa dose quotidiana di amarezza, ormai ci siamo, ti piace questa parola, mitridatizzati alla tua amarezza, ti piace questa immagine? Da mitridate? Da mitridate. Una goccia di amarezza di Manera al giorno non ci fa neanche più vedere la vita amara, siamo talmente abituati. È una specie di cura omeopatica, no? Sì. Vabbè, a parte questo distillo di amarezza, hai qualcos'altro da comunicare? No, no, sono in attesa di sapere come la questione delle mascherine con l'onorevole Giarrusso. Eccola qua, le mascherine, ciao. Guarda che mi hanno colpito. Eccolo qua, ciao Dino, Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Ci possiamo andare del tu, che ci conosciamo. Allora, io oggi ho letto due cose sulle mascherine che mi hanno colpito, poi parliamo della tua iniziativa. Ad Arcore, Monza e Brianza, furti di mascherine dalle caselle della posta. Cioè, mettono le caselle... No, cioè, è un posto particolare, quindi si sa che succedano cose particolari. No. Ma l'amministrazione mettono le mascherine e la gente se le ruba. E oggi Repubblica racconta le mascherine, una storia di mascherine comprate a 36 centesimi e rivendute a 20 euro. Ma perché un'azienda voleva speculare, qui non c'entra la filiera, i costi. Va bene, insomma, Dino Giarrusso, europarlamentare 5 Stelle, ha fatto un'iniziativa personale, insomma, ha fatto arrivare 80.000 mascherine dalla Cina. Come hai fatto? Gratuitamente. Allora, gratuitamente. 80.000 tutte gratis, quindi diciamo che quando pensavamo di comprarle con altri parlamentari del Movimento 5 Stelle di Catania, i prezzi erano molto alti, cioè con 400 euro ce ne davano circa 80. Quindi 80.000, diciamo, ha un controvalore molto alto. Io devo ringraziare due persone, uno si chiama un ingegnere, entrambi ingegneri, Giuseppe Privitera, che è un ingegnere catanese che lavora con una società cinese, e questa imprenditrice Jie Wang, e ci ha detto a me, a un altro ingegnere che si chiama Massimo Costanza, che è invece un mio collaboratore, ci ha raccontato che questa imprenditrice molto facoltosa aveva piacere a fare un regalo all'Italia, non naturalmente di soldi, ma di materiale, e c'era questa possibilità di avere delle mascherine. Io, grazie agli attivisti del Movimento 5 Stelle di diversi comuni, ho sparso la voce, mi hanno detto quali erano i comuni della Sicilia e della Sardegna che io rappresento al Parlamento europeo con più difficoltà, e ho scritto a diversi sindaci, erano in realtà più di 10 comuni. Non tutti del Movimento 5 Stelle, anche questo ci tengo a dirlo, abbiamo dato a 5 comuni alla fine 16.000 mascherine, sì, per ciascun comune, che sono Acireale, Biancavilla, Centuripe in Sicilia, Nuoro e Porto Torres in Sardegna. Questi hanno 2 sindaci 5 Stelle, 3 no, ma non mi interessa niente, io mascherine le porto per i cittadini, per aiutare dove c'è carenza, e peraltro con molta dolcezza. Queste mascherine sono state accompagnate da questi disegni bellissimi, in radio disegni, non si possono fare vedere, sì, purtroppo, dei bambini. Sì, già giusto ho detto, quando commosso, ho visto questi disegni, sì, mi hanno commosso. Perché ti hanno commosso? Per una vicinanza, una solidarietà, un'empatia di questi, perché, bambini? Perché questa malattia, come diceva prima il simpatico Manera, cioè ci ha cambiato totalmente la vita, secondo me per sempre. Cioè, secondo me cambieremo proprio il nostro modo di rapportarci con gli altri, con il lavoro, con il tempo libero, con gli spostamenti, con l'inquinamento, con tante cose. E poi quando vedi che dei bambini, magari che anche loro sono ristretti, che tanto vengono proprio dalla zona di Wuhan, hanno pensato, non soltanto, arrivano le mascherine, grazie mille, perché comunque appunto è un dono molto importante perché c'è carenza, però dice... facciamo accompagnare un saluto dei bambini cinesi ai bambini italiani, e c'è un racconto vero e proprio, da questi segni c'è un vero e proprio racconto di quello che hanno vissuto loro e che vorrebbero evitare che vivessimo anche noi, perché loro l'hanno vissuto un po' prima di noi, poi in realtà purtroppo lo stiamo vivendo anche noi, anzi l'Italia ha avuto gravissime conseguenze. E ci sono questi bambini che si prendono per mano, uno con la bandiera della Cina, uno con la bandiera dell'Italia, c'è quello lì bellissimo, che sono loro si sono raffigurati come un trancio di pizza, che è l'Italia, e le bacchette, che è la Cina. Si prendono per mano, c'hanno la mascherina davanti. Mangiala tu la pizza con le bacchette, se ci riesci. È difficilissimo, però, insomma, neanche Manera ci riuscirebbe. Ci tengo a dire ancora due cose, poi sarò a disposizione. Innanzitutto che i sindaci sono stati gentilissimi e hanno messo a disposizione anche a comuni limitrofi, perché poi chiaramente i comuni sono tantissimi, ne avrei voluto portare di più, ma siamo 80.000, sono già discreto quantitativo. Pensate che la Russia in totale ne ha donate 300.000 all'Italia, in assoluto in totale. E però loro le hanno messe a disposizione anche ad altri comuni, come Catena Nuova, come Via Grande, come altri comuni della Sardegna, Oliena, eccetera, perché si è creata una rete di solidarietà tra comuni, e questo è successo, è quello che ci suggerivano i bambini, fare una rete di solidarietà come un ponte tra Italia e Cina, ma e sì, ora i bambini italiani stanno facendo i disegni per i bambini per cinesi, per i cinesi. Fatte delle mostre. Leonardo, ma tu l'hai capita questa storia delle mascherine? Guarda che è un mistero assoluto, cioè impressionante. Certo, ma c'è io la ancora, speculazione. Il mistero principale è che ancora io non ho capito se servono o non servono. La cosa che mi fa impazzire sono le mascherine chirurgiche, perché proteggono il virus in uscita, cioè non fanno ammalare gli altri, ma il virus in quelle può entrare. E quello per me è un mistero, cioè sono un mistero. Mascherine un po' masochistiche. Ma rimani così un po'. Ma posso chiedere una cosa a Gianrusso, che è una cosa che mi fa impazzire. Cioè in molti, anche Gianrusso ha detto che la vita non tornerà mai più come prima, ma io mi chiedo se al più tra un anno e mezzo ci sarà il vaccino. Ecco, non riesco a capire perché i rapporti umani non dovrebbero, secondo molti, tornare come erano prima. Secondo me, Leonardo, perché c'è stato una tale modifica. Tu hai detto prima il 45esimo giorno, mi pare di aver capito. Sì. Io sono qui dal 9 marzo, per cui ancora di più, anche se sono andato in Parlamento delle volte, quindi non sono stato proprio chiuso in casa. E ti dico, secondo me rifletteremo molto e cambieremo molte abitudini per sempre, anche quando ci sarà tutto il vaccino, ci auguriamo che arrivi presto, eccetera. Perché abbiamo scoperto, per esempio, quanto inquiniamo senza che ce ne sia bisogno. Abbiamo scoperto quanto alcuni lavori si possono effettivamente fare da remoto senza avere nessun problema, nessuna difficoltà. Quindi magari alcuni giorni alla settimana useremo veramente il telelavoro ed eviteremo magari di inquinare uscendo con la macchina, eccetera. Abbiamo scoperto quanto siano preziose, anche in positivo, quanto ci manca il cinema, quanto ci manca il teatro. Magari delle persone che ci andavano Leonardo è disperato, perché, giustamente. No, io mi auguro che cambi anche in positivo, cioè che alcune attività che abbiamo un po' snobbato tornino in auge proprio perché ci stanno mancando. Quando una cosa non ce l'hai, come le ex fidanzate, Leonardo ne sa qualcosa, quando poi non le hai più ti mancano di più. E quindi mi auguro davvero che ci possa essere. È famoso anche all'Europarlamento, Leonardo. Sì, è famoso anche all'Europarlamento. Pure la von der Leyen, non ho capito. Sì. Ma tu non ho capito, stai a Bruxelles adesso? A Bruxelles, dal 9 marzo. Sì. Ma è incredibile, io pensavo fossi riuscito ad entrare a Catania, cioè è una roba... No, anche perché i miei genitori come sono... Come fai a Bruxelles? È abbastanza amara, dico la verità. Dovresti fare, Leonardo, un pezzo su Dino Gianrusso blindato a Bruxelles. Questo è il trionfo dell'amarezza, un catanese a Bruxelles. Non è una città molto allegra, immagino. Io sono stato una settimana in Lussemburgo, che insomma non è distante, e la ricordo come veramente una settimana più amara della vita. C'ha delle cose, noi siamo abituati a goderci la vita in maniera diversa, ecco, sì, questo sicuramente sì. Però i miei genitori hanno patologie, per cui è il caso di evitare anche di che io rientrassi a Catania, nel caso che loro siano in assoluta sicurezza. Allora, Dino, però, detta una cosa, perché qualcuno ci scrive, non è il Gianrusso che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, sono solo omonimi, Dino Gianrusso. Anche Milan non è quello che fa il derby con l'Inter, diciamolo tutti, Dino Gianrusso, ci sono state anche delle polemiche, perché ovviamente, sai, quando si tocca la Cina, poi sai che c'è tutto lo spostamento dell'asse verso la Cina, a dire ecco Gianrusso con la Cina, chissà quale tipo di non lo so, di entratura, chissà quale tipo di ci state vendendo la Cina, questa è l'accusa, ecco, sì, no, che viene fatta. Lo spostamento dell'asse da stiro effettivamente c'è stato, cioè sia io che mia moglie, se stiriamo adesso orientiamo verso la Cina, questo lo ammetto, però a parte questo non c'è stato nessuno spostamento. Io sorrido con voi perché siete simpatici, ma da politico dico abbastanza imbarazzante che quando una volta, non dico che riesca sempre, uno si trova ma non riesce quasi mai, quando si riesce a fare un'opera di bene gratis, perché queste mascherine non abbiamo neanche le spese di spedizione, c'è stato arrivato tutto gratis, i bambini ci hanno fatto i disegni, i bambini italiani faranno quelli per i cinesi, faremo una mostra in tutti i paesi, e c'è una cosa che ha coinvolto proprio la cittadinanza, le persone sono veramente contente, perché le facevano, sai come, con le mutande, con i tovagliolini, si arrangiavano come potevano in alcune zone d'Italia, purtroppo. Allora nel momento in cui succede questo, qualcuno dice, questa è la prova che il Movimento 5 Stelle casaleggia un legame con la Russia, con la Cina, eccetera. No, non è così. un ingegnere catanese che lavora con aziende cinesi ha sentito questa imprenditrice gentilissima e generosa che aveva esposto questo suo desiderio di fare qualcosa per l'Italia, perché loro a Wuhan l'hanno avuto prima, poi noi l'abbiamo avuto nel frattempo, e lui ha detto: ma io conosco un europarlamentare, mi ha chiamato, io le ho chiesto di fare le cose per bene, ti assicuro è stato faticoso, perché proprio per evitare le speculazioni che dicevi tu, la dogana è molto severa, è giusto, queste mascherine potevano arrivare pure prima, invece abbiamo fatto tutta una serie di controlli rigorosi, sindaci, le cose. Sì, quindi tu dici, una volta che un politico fa una cosa senza... una volta che riesce una cosa pulita, la stampa di Torino, la verità, diciamo, nomi e cognomi, fa un articolo in cui dice che questa è la prova di un complotto putinian cinese, c'entrava anche Manera, lui poi gli ho chiesto di toglierlo dall'articolo e quindi ha tolto Manera, però secondo lui c'entrava. Allora, noi nel ringraziare Dino Giarrusso è arrivata la proposta finale di un ascoltatore, ti mandiamo Manera a Bruxelles, e questo è così, vi rinchiudete lì. Dopo racconterò del mio episodio in Lussemburgo che mi è capitato. Sì, va bene, mai più senza. Vabbè, un abbraccio a Dino Giarrusso e grazie per essere stato con noi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, traffico e poi Manera in Lussemburgo, che sembra un po' come vacanze di Natale a Cortina, cioè Manera in Lussemburgo, sentiamo tra un attimo. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Uno, nessuno, 100 Milan. Sa perché le ferie del 2020 non si possono toccare? Perché non sono ancora maturate, perciò non esistono. Io stamattina mi sono svegliato e mi sono fatto una domanda: ma è vero che tutti i giornalisti o che tanti giornalisti sono pagati dai partiti? Ma chissà se è vero. Ecco, è così che si fanno le domande, e come uno fa le domande, non è come le imposta, è come le fa. Ecco, per esempio, a questa domanda, tanti giornalisti vengono pagati dai partiti, posso dire forse zero, non lo so, uno, non lo so, mi sembra una puttanata pazzesca. Vabbè, come, ma non lo si può chiedere a te, tu sei parte in causa. Ma no, capito, dai partiti, ma... dai partiti, sì, dagli editori, ci vengono pagati. Ma tu sei partiti, parte in causa, e probabilmente sei uno di quelli prezzolati dai partiti, quindi è inutile poi chiederlo a te. Che poi ci siano alcuni editori che fanno anche politica, questo sì, ma non vuol dire che vengono pagati dal partito, vengono pagati dagli editori. Indirettamente. Comunque, sì, dai. Ho come il sospetto che fosse un dipendente pubblico questo ascoltatore. Io ringrazio invece tutti i dipendenti pubblici, non quelli livorosi o coda di Paglieschi. Ti piace coda di Paglieschi? No, non so se possiamo chiamarla Accademia della Crusca, perché se si può dire coda di Paglieschi, potremmo inventare questo nuovo aggettivo. Che invece mi stanno rispondendo. Per esempio, c'è un altro ascoltatore che dice: invece io sono dipendente pubblico e il segretario comunale ha detto che stiamo scaricando e utilizzando anche le ferie del 2020, che tra l'altro ho già esaurito, ci scrive un ascoltatore. Sono dipendente del comune della provincia di Brescia. No? È bellissimo, perché non è in Italia non c'è mai una risposta certa. Questo è meraviglioso, esatto. È uno specifico dell'Italia non avere risposta. Ed è per questo che ho fatto questa domanda oggi su Facebook, cioè se i dipendenti pubblici che non stanno facendo il lavoro agile da casa vengano comunque pagati. Questo ascoltatore mi ha detto: noi stiamo scaricando anche le ferie del 2020, quindi contraddicendo il saccentone che ci ha mandato l'audio dicendo che le ferie del 2020 non possono essere scaricate perché non maturate. Vabbè. Ma Manera in Lussemburgo? Allora, correva l'anno 2002, ci vorrebbe la base della Marezza, Pippo, ma non ci ce l'ha, Pippo potrebbe, Oreggi, figuriamoci se Pippo Oreggi la trova. L'ha trovata.

A causa loro abbiamo rivalutato anche i comportamenti di Tina Cipollari, per dire che virologa non è. Abbiamo scoperto che è rarissimo trovare due virologi che la pensano allo stesso modo, anche se sono laureati nella stessa materia, come due tifosi della stessa squadra che però la pensano in modo diverso sul campionato. E soprattutto abbiamo scoperto che anche ai virologi piace punzecchiarsi, delegittimarsi, scornarsi. Non so se tutto questo è rassicurante o preoccupante per noi comuni mortali non addentro ai segreti della scienza. La cosa certa però è che una volta tornata alla normalità potremo ritrovare alcuni virologi ormai star del piccolo schermo protagonisti di qualche nuovo format televisivo che potrebbe chiamarsi, chissà, invece il grande fratello VIP, il grande fratello VIR, dove VIR è il diminutivo di virologo. Sarebbe il segnale che il coronavirus si è ritirato, che potremmo tornare alla solita vita di sempre, anche se inevitabilmente con qualche virologo in più. Quindi non è tampone in diretta, no? Hai cambiato formato. No, il grande fratello VIR. Sì, il grande fratello VIR. Sentiamo Felice da Roma. Buongiorno Felice. Buongiorno. Senta, vorrei fare una proposta e una domanda. Sì. La mia domanda sarebbe: che fine hanno fatto le sardine? Poveretti, non si possono riunire, e quindi le sardine notoriamente fanno le adunate, gli assembramenti, come fanno a incontrarsi se non si può? Questo, la proposta però è questa, se si potrebbero utilizzare, quelli più giovani normalmente su base volontaria, andare a raccogliere i pomodori parlando con i voucher, se ma ci chi? Sono le sardine. Ma chi le sardine? Ma le sardine sono cittadini che hanno dei lavori già, non è che però è bello, Felice vuole proporre le sardine a raccogliere i pomodori, ma le sardine sono persone che fanno poi gli impiegati, i manager, gli imprenditori, i dipendenti pubblici, gli insegnanti, gli infermieri. Cioè hanno già un lavoro. Bella però, Leonardo, ti piace l'idea? Le sardine a raccogliere pomodori. Certo che le sardine sono nate proprio nel momento sbagliato, eh? Sardina sì, è proprio oddio. Sinonimo di assembramento. Sì, cioè, oddio, sono nate. Vabbè, non sì. Lo sapevano del virus. No, dico purtroppo per loro, dico sono nate nel momento sbagliato in cui è vietato fare assembramenti e si dice vabbè, sempre come sardine. La proposta di devono Felice. Sciogliersi subito. Dai, andiamo, ma si sono già sciolte di fatto, i decreti del governo le hanno sciolte in pratica. Andiamo al giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Alessà, e domanda pure ai amici tuoi russi, no, se fanno come questi cinesi, se sa mai. Ciao. No, volevo dire a Manera che le mascherine chirurgiche non sono masochiste, ma sono altruiste, nel senso che se ce l'hanno tutti, tutti sono protetti. Sì, sono un dipendente pubblico, lo dica pure. Io sono un dipendente pubblico, ho sempre lavorato, ho fatto le ferie che avevo ancora e continuo a lavorare adesso, ma non sto a casa a fare un cazzo di niente come fanno tanti. E non ho la coda di paglia, mi chiamo Sergio Ferrero. Eccoci qua, cari ascoltatori. C'era un po' di astio, hai sentito come ha risposto? Un po' di livore, tutto per una domanda banale, e ci ha risposto. Io prendo sempre il bene delle cose. Ci ha risposto dicendo che sta a casa e lavora, quindi ha risposto alla mia domanda, sta a casa e lavora, quindi non rientra nella tipologia della mia domanda. Io ho detto chi sta a casa e non lavora, prende comunque lo stipendio, non rientra lui nella tipologia. Era una domanda comunque che sottintendeva la tua domanda. Certo, sì. Ti piacciono le domande con sottintesi? I famosi sottotesti. Sono quelle domande un po' retoriche che nella domanda c'è la coda di paglia anche tu. C'è la coda di paglia anche tu. Allora, io vorrei sentire Luigi da Milano, se è breve lo ringrazio. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Ieri ho assistito a una cerimonia assurda dove si è perpetrata la massima esibizione dei poteri dello Stato e della burocrazia. In momenti gli arresti domiciliari, io sono un pensionato che sono da 2 mesi agli arresti domiciliari, ho visto 25 studenti che si sono trasferiti da regione a regione senza sapere quali mezzi hanno utilizzato e da chi fossero accompagnati, per ricevere l'onorificenza da parte del capo dello Stato degli Alfieri, no? Al Quirinale a Roma. Nei filmati mandati in onda, si saranno spostati in sicurezza, voglio immaginare, no? dal TG si vede addirittura una ragazza al fianco del presidente che a seguito della commozione quasi gli lacrima addosso. Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché nella situazione in cui ci troviamo a seguito del coronavirus bisognava dare corso a una cerimonia non rispettando il decreto che limita gli spostamenti a tutti gli italiani per futili motivi. Probabilmente, probabilmente non sarà stata giudicata futile, insomma, sarà stata giudicata fondamentale, di rilevanza istituzionale, ecco. Però insomma, lei nota questa disparità. Lei agli arresti domiciliari, mentre il Presidente della Repubblica ha fatto una cerimonia al Quirinale, ha dato delle onorificenze. Leonardo, tu sei tra gli Alfieri? Sì. No. Ma sono quelle cose che vengono fatte. No, sto dicendo che sono quelle cose che vengono fatte per dare il segnale che la vita continua. Per pochi, ma continua. Per pochi, ma va bene. Eugenio Parise, buongiorno, ben ritrovato, Eugenio Parise. Buongiorno a lei, signor Milan. Allora, Eugenio Parise, originario di Bracciano, Roma, amministra su Facebook il gruppo Pensionati all'estero, Pensionati Aire, è un ex dirigente, vive in Portogallo, abbiamo raccontato la sua storia come la storia di tanti italiani, di coloro che sono andati in Portogallo perché insomma, c'è una situazione di tasse molto favorevole per le pensioni, ma qui l'abbiamo chiamata più come cronista. Come cronista, perché è vero che in Portogallo hanno gestito, pare alla perfezione, questa emergenza del coronavirus, per cui i contagiati sono molto limitati. Beh, sicuramente l'hanno gestito molto bene, in maniera tempestiva, utilizzando saggiamente le tristi esperienze dell'Italia per prima e della Spagna vicino, e soprattutto con una struttura, una, come si dice, una linea di comando molto, molto breve e con una compattezza politica più che governativa veramente invidiabile. Questo è così. E anche, non è secondario, una disciplina della popolazione. Questo credo che siano gli elementi del successo. Devo fare una precisazione, faccia fare un passo indietro, perché giustamente... Sì. Un ascoltatore mi dice, riguardo alle immagini del telegiornale, per rispondere all'ascoltatore di prima, la premiazione degli Alfieri di Mattarella al TG era quella dello scorso anno, le immagini forse, quindi forse erano immagini d'archivio e non c'è stata, non lo so, dobbiamo approfondire, sfida Luchetti, hai 10 minuti per approfondire. Torniamo alla questione Portogallo, ecco, linea di comando breve. Questo mi sembra di capire, cioè ci sono task force, per esempio. A proposito lì di Alfieri, l'Alfieri del successo, almeno sino ad oggi, ha un nome ben preciso, si chiama Antonio Costa, che è il Presidente del Consiglio. Nonostante alcune resistenze non secondarie di suoi ministri, ha imposto questa linea di condotta che lo sta premiando. Che cosa è stata questa linea, per capire? Cioè isolamento anche lì? Beh, l'isolamento immediato e alcune azioni che, insomma, alla luce di quello che è accaduto si sono mostrate particolarmente sagge. Per esempio, lei sa che hanno scritto giornali italiani la regolarizzazione degli immigrati clandestini. In effetti non è vero, degli immigrati punto, senza clandestini, perché di clandestini in Portogallo ce ne sono pochissimi. Vengono tutti regolarizzati perché vengono tutti avviati fondamentalmente ai lavori agricoli, che sta avendo l'agricoltura uno sviluppo imponente. Il dibattito che c'è adesso, quindi lì in Portogallo li hanno regolarizzati. Li hanno regolarizzati. E poi la fascia, tutto sommato abbastanza poco numerosa, ma comunque esistente, di clochard, di senza tetto, tossicodipendenti, eccetera, sono stati identificati, riuniti in strutture con fornitura di pasti giornalieri, però tenuti tutti insieme e controllati da un punto di vista medico. E quindi non sono andati in giro dispersi senza che nessuno ne avesse notizia o conoscenza, e quindi potessero creare problemi di infezioni infettandosi o diffondendo l'infezione. Insomma, è stato un controllo ferreo proprio. Sì. Ma tutto questo fatto senza manifestazioni di forza, senza clamore, senza polizia che gira, senza elicotteri che inseguono, nessuno sulle spiagge, e quindi spiagge ce ne sono. Capito. Adesso la situazione com'è? Molto disciplinato, molto serio. Sì. I numeri sono piccoli, difatti, no? Perché se lei vede, qui ci sono, viene ad alcuni velocissimi, sono stati fatti 210.000 test, tamponi, sono stati confermati, quindi con sintomi 22.000, non confermati, quindi senza sintomi 185.000, 785 persone purtroppo sono decedute e 30.000 sono in vigilanza sanitaria nelle abitazioni. Questi sono i numeri. C'è da dire che la diffusione è arrivata un pochino più tardi, quindi hanno avuto tempo evidentemente di vedere cosa hanno fatto, certo, di vedere cosa hanno fatto gli altri e di adeguarsi. Tra l'altro il Portogallo, se non sbaglio, è un paese di 10 milioni di abitanti con un'alta percentuale di anziani, alta percentuale di anziani. Assolutamente sì, soprattutto stranieri. Perché con questa famosa detassazione, che ormai sono parecchi anni, 7 anni che c'è in Portogallo, l'afflusso dalla Francia in particolare, ma anche dagli altri paesi del nord Europa e dall'Italia in maniera molto minore è stato imponente in questi anni. Quindi sono molte migliaia, sono 20.000, 25.000 pensionati che girano per il Portogallo. In ogni caso, capito Leonardo, cioè hanno studiato la situazione degli altri paesi, si sono attrezzati prima, per cui appena è arrivato il coronavirus a inizio marzo io considero che fondamentale è la compattezza governativa, il supporto immagino, dell'opposizione. Insomma, è stato famoso. Nei paesi più piccolo forse è anche più semplice, ma adesso la situazione è ancora di lockdown blocco, oppure adesso si sta ricominciando ad aprire? Sì, fino al 4 maggio, con probabilità che rimanga ancora così, ancora per un po'. Per sempre. Perché ci sono alcune aree che sono insomma, pesantemente investite, quella del nord di Porto, Braga, eccetera, e poi torno a Lisbona. Sono veramente gravi lì le situazioni, però sotto controllo. Eugenio Parisi, grazie, insomma, dal Portogallo è un po' la nostra antenna, ogni tanto ci racconta, l'avevamo chiamata in passato per parlare appunto di questa vicenda di molti pensionati che vanno poi a passare la parte di vita di pensione lì, perché c'è una detassazione in Portogallo come diversi altri paesi. Oggi insomma diventa il Portogallo a qualche modo protagonista in Europa, perché è un caso positivo nel senso che ovviamente è limitato il contagio, ecco, non ci sono stati immuni in questo momento. Però grazie per questa testimonianza. Allora andiamo a sentire informazioni sul traffico. Devo dire che continuano a scrivermi e ringrazio molto tutti i dipendenti comunali che raccontano la propria vicenda personale, chi addirittura mi scrive sono ammalata di Covid e ho dovuto scaricare anche le ferie perché entro il 30 aprile non riesco a smaltirle. Insomma, è chiaro che, come dici tu, caro Leonardo, comune che vai o ente comunale che vai, regola che trovi. Siamo l'Italia non tanto delle 20 regioni ma anche degli 8.000 comuni. Andiamo al traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10:19 minuti, devo dire sfida Lucchetti vinta, ma anche tanti ascoltatori che ci stanno riversando di messaggi a raccontare. Caro ascoltatore che ci hai chiamato prima di Milano, colpa mia, anche io vedo pochissimo la TV, se poi non ce la faccio a vedere più i talk show sul coronavirus, non no, ce basta, la faccio neanche più a vedere che... i telegiornali, non basta, non ce la faccio più. Io ascolto quindi il minimo necessario, ma poi ma zero, tutto il resto zero, lo evito. Zero, non zero, ce la faccio zero. Più. Adesso vi dico cosa metto io. Comunque, ci dicono tutti, caro ascoltatore di Milano, che le immagini di ieri della consegna agli Alfieri del Presidente della Repubblica erano immagini di repertorio, erano dell'anno scorso, quindi non c'è stato nessuno spostamento di nessuno, anzi sono stati consegnati in via telematica con l'idea di dire faremo l'incontro appena possibile. Quindi, caro ascoltatore, hai visto delle immagini di un anno fa, di sì, un anno fa. Ma noi abbiamo abboccato subito, e io ti ho dato anche corda. Sì, abbiamo abboccato subito, immediatamente, ci abbiamo creduto come due pesci lessi. E io anche a dire, ma insomma, il Quirinale, come possibile? No, non l'ho detto così, dice l'ascoltatore, ho preso per fede una roba sulla quale ero ignorante, d'altronde sono tantissime le cose sulle quali sono ignorante, praticamente tutte. Niente. Crediamo a una tutto. Una minchia, no, socio. Io... Potrebbe chiamarsi Crediamo a tutto. È una trasmissione che si chiama Crediamo a tutto. I creduloniti. I creduloni. Dai, avete chiunque 30 secondi per chiamarci e convincerci della qualunque. I creduloni di Leonardo Manera e Alessandro Milan. Siamo veramente due cialtroni. L'importante è riconoscerlo e saperlo. Ecco, cosa guardo io di questi tempi? Cerco moltissimo, ma mi piace per esempio su Antenna 3 vedere i cori degli Alpini. O sai quelle trasmissioni in cui simulano e ricostruiscono delle piazze di paese e ballano liscio. Festa in piazza si chiama, sì, è un programma ecco. Che va molto, che va per la maggiore, quello, ma qui almeno trovo, al nord, festa in piazza. Trovo quello uno dei programmi più rilassanti in questo momento, cioè tu giri, c'è il mezzo busto del telegiornale che dice i casi sono, tac! Subito, basta, ma non ce la faccio più. Liscio. Se vuoi ti faccio avere come ospite qualcuno che lavora lì, conosco tante persone che ci lavorano. Stupendo, conosco... stupendo. Sì, sì. Festa in piazza, perché no? Perché no? Ma è bello, cioè, facciamo... Anzi, mi prepari un po' di liscio, Filippo, trova, prendi, vai, musica no, che generalmente non sopportano le sagre di paese. Ci sono tanti comici milanesi che lavorano in quelle trasmissioni e vanno a cantare le canzoni milanesi. Ma è bello, poi ci sono anche dei cori ogni tanto, a volte sono anche stonati alcuni, ma chi se ne frega, bello, ti metti lì, ma chi se ne frega, basta, il coronavirus non se ne può più, anche noi parliamo sempre del coronavirus, siamo noiosi, noi creduloni, va bene. Adesso è venuto a bussarti, credo però il prof... Ecco. Oh... Forza, festa in piazza! Vabbè, Romagna mia, proprio il gran classico. Festa in piazza, dai, ballare! E tu guardi questo, cioè vuoi mettere al confronto i dati della Protezione Civile e dicono forza, ballare, avanti! Tra l'altro sono tutte trasmissioni, anche quelle registrate ovviamente prima, ovvio, no? Perché ormai stiamo vedendo solo repliche in televisione praticamente, sì, sì. Tranne i programmi giornalistici sostanzialmente sono repliche, e tranne Uomini e Donne che ho visto che è ripreso anche quello da casa, mi sembra. Sì? Quello... Sì, io l'ho visto di pomeriggio, che ognuno ha a casa propria, lo metto in coda di talk show. Va bene, però credo che sia venuto a trovarti il professor Jansen, abbiamo bisogno di un supporto anche psicologico di questi tempi, è fondamentale. È un momento complicato, caro Alessandro. Voi sapete che io sono psicologo, ho inventato il mio metodo, che è il metodo di stare bene, senza far troppe sedute, senza passare tutta la vita sul lettino, do delle regole chiare e facili per stare bene. Per esempio, ci sono tante persone tormentate dal rimorso per gli errori che hanno fatto nella vita. Ecco, questo è un problema per tante persone. Allora, il mio consiglio per stare bene è bere. Ci sono tanti tipi di alcolici disponibili sul mercato. bisogna scegliere quelli che ci stordiscono di più. Come? E lasciarsi andare all'ebbrezza dei superalcolici, che per qualche ora non ci fanno più pensare agli errori dolorosi del passato. Poi ci sono persone che sono bloccate perché non riescono a dire a una persona, per esempio, che la amano, e allora passano tutta la vita nell'infelicità perché non riescono a esprimersi. E allora il mio consiglio è bere, scegliere il tipo di superalcolico adatto che ti disinibisce, in modo che tutti i giorni si può dire alla persona amata quello che si prova veramente. Oppure ancora ci sono persone che di notte non riescono a dormire perché sono troppo stressate. E allora il mio consiglio è bere, perché un bel bicchiere di alcol favorisce il sonno e finalmente la mattina successiva si può dire di aver fatto 8 ore belle di sonno. E se non sapete quale superalcolico scegliere, io vi consiglio la cantina Fratelli Brusoni a Pergine Valsugana. Ma questa è pubblicità. Scusi, professor Jansen, già ci aveva provato qualche mese fa. Questo lo dicerei. Cantina Fratelli Brusoni a Pergine Valsugana, la cantina dove puoi trovare tutti i tipi di superalcolici che sa risolvere ogni problema. Si chiamano inserti pubblicitari. Ordinazioni via internet, consegne facili e veloci, e arrivano 10 bottiglie del tuo superalcolico preferito. In omaggio anche un bel calice in cristallo personalizzato con la mia firma, dottor Jansen. Ecco, questo. Vabbè. Però, sì, lei non prende soldi ovviamente da... No, assolutamente, è un consiglio per la salute dei nostri amici, però sono qui anche per aiutare a risolvere i problemi legati a questo periodo di coronavirus. Il problema di cui voglio parlare oggi, e lei magari sa che tante persone soffrono di questo, la difficoltà della convivenza forzata quando con tuo marito o tua moglie, quando non puoi nemmeno uscire per svagarti qualche minuto magari col tuo amante o l'amante. Infatti sappiamo che i matrimoni che durano a lungo sono solo quelli dove entrambi i coniugi hanno un amante. Avere l'amante è la salvezza del matrimonio. Ma non si può più uscire di casa e quindi stare con il coniuge tutto il giorno. E allora come si può fare per superare il problema? Ebbene, le parole d'ordine sono due: silenzio e bugie. Solo col silenzio e le bugie puoi superare la convivenza da coronavirus. Per quale motivo? Il silenzio serve a farsi notare il meno possibile in casa. Meno si parla, più si supera il peso di avere un'altra persona che non sopporti tra le quattro mura domestiche. L'uomo non esiste, col silenzio la donna non esiste, e così si può andare avanti. E poi una bugia al mattino e una bugia alla sera. Per esempio si può dire ti amo alla mattina, oppure è stato bello ieri sera con te, anche se non avete fatto niente, vi siete addormentati davanti alla TV guardando qualche virologo. Le bugie permettono di pensare che ci sia ancora traccia di qualcosa di buono, e soprattutto se voi raccontate una bugia dove fingete di essere innamorati, l'altra persona si farà qualche scrupolo in più prima di rompervi le scatole. E col silenzio non vi fate più notare, e la giornata in qualche modo arriva fino alla fine. Se poi riuscite anche ogni tanto a fare l'amore dicendo il nome giusto della persona che ma avete, come il nome giusto? Spesso si sbaglia, per cui si dice cara, gioia, amore. Siete a cavallo. Allora, silenzio e bugie, e poi anche, perché no, cantina Fratelli Brusoni a Pergine Valsugana. Ma no, questa non deve dire. Bene, no, per stare bene. È pubblicità. Allora, è pubblicità. Mi chiede un ascoltatore, ma contro lo stress da quarantena è ancora consigliato il copino a Simone Spezia? Naturalmente. Dare schiavo sul copino a Simone Spezia è la soluzione per tutti i mali. Purtroppo Simone Spezia non può girare in questo momento a farsi dare schiaffi il copino da tutti. Vabbè. da tutti, proprio lo sport redazionale, oserei dire. Va bene. Sarebbe un metodo antistress. Lucio da Campobasso, chiudiamo con lei. Lucio, buongiorno. Dobardan. Dobardan, grazie, grande, sì, che ci chiama dall'enclave. Croata. Niente, volevo segnalare, vista la risonanza della vostra radio, il fatto che in regioni come il Molise, se dobbiamo muoverci nell'ambito della stessa regione, stiamo fermi a casa praticamente, ci sono vallate che fanno cuci scuci come una cerniera lampo tra Abruzzo e Molise. lo dimostra il fatto che l'ospedale di Termoli, che è stato chiuso il mese scorso, hanno appoggiato i pazienti all'ospedale di Vasto, che è in Abruzzo. Quindi la Fondovalle Trigno, la scorrimento veloce, sì, è come una cerniera lampo che fa tra le due regioni. La stazione ferroviaria, noi della Valle del Trigno, ma penso anche Sangro, sì, che fa Sangro, per raggiungere la prima stazione ferroviaria decente è in Abruzzo. Sì, e tra l'altro ricordiamo che in Molise ci sono casi molto limitati, quindi io per primo ho detto perché non si può pensare di liberare un pochino le persone. Credo che la ratio sia che se adesso dal Molise c'è il liberi tutti e si va in giro e poi si torna a casa, c'è il rischio di contagiarsi. Però Lucio da Campobasso, come sente la sigla, siamo in chiusura, ma dalla enclave croata Dobrdana anche a lei, o Dobridien se lo vogliamo dire alla russa, ci inteniamo tra bolscevichi, lei capirà. Grazie, ci sentiamo presto. Leonardo, è il momento di concludere la trasmissione come al solito col tuo urlo di battaglia al mondo. Vai. Al 4 maggio manca poco. Bravo. Vai. Ciao, a domani. Ciao. Uno, nessuno. Nessuno, nessuno.